mana tu sole, più bello oggi. Oh sole mio, stan fronte a te. Oh sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te. Che bella cosa, ma giornate sole, un'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata o sole, mana tu sole, più bello oggi. O sole mio, stan fronte a te. O sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te. Quando fa notte, o sole se ne scene, ma venne quasi una malinconia. Sotto a finestra, toglia resta via. Quando fa notte, o sole se ne scene, mana tu sole, più bello oggi. O sole mio, stan fronte a te. O sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te. Notte, o sole se ne scene, ma venne quasi una malinconia. Sotto a finestra, toglia resta via. Quando fa notte, o sole se ne scene, mana tu sole, più bello oggi. O sole mio, stan fronte a te. O sole mio, stan fronte a te, stan fronte a te. Stan fronte a te, stan fronte a te.